Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io non voglio diffondere assolutamente apprensione nei cittadini, dico semplicemente ai cittadini che siamo entrati in una fase, che è la fase X, che è quella che non si scherza più, e quindi il naso va messo sotto la mascherina, non fuori. Per dire che se fino a ieri qualcuno poteva anche permettersi di far uscire il naso dalla mascherina improvvidamente, do un consiglio spassionato: evitate di farlo, perché potete trovarvi sorprese. Raccomandazione spassionata, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, del presidente della regione Veneto Luca Zaia, dove man mano stanno salendo i casi, anche se diversamente da altre regioni. Per il momento Zaia dice che non prenderà provvedimenti più restrittivi rispetto al decreto del presidente del Consiglio, come invece stanno appunto facendo altre regioni, cosa che ha fatto appunto la Campania, il Piemonte, Lazio, la Lombardia, dove da stasera dalle 23 scatta il coprifuoco, lo sapete, dalle 23 alle 5 di mattina. E per quanto riguarda sempre la Lombardia, anche la decisione di fare didattica a distanza da lunedì alle scuole superiori ha fatto infuriare la ministra Azzolina, che dice: no, abbiamo fatto tanta fatica per far tornare i ragazzi a scuola. Ma Fontana, presidente della regione Lombardia, ha replicato: se ritiene che siano misure eccessive, le impugni. Poi c'è il ministro della Salute Speranza, che oggi ha annunciato, su richiesta delle regioni, di snellire le procedure per il tracciamento, ha annunciato presto l'arrivo di test rapidi da fare sia in farmacia che negli studi dei medici di base. E anche di questo parleremo. Tanti argomenti, come sempre, da affrontare insieme agli ospiti e con i vostri commenti. Se volete, alla pagina Facebook di Effetto Notte, li potete scrivere lì, oppure attraverso i WhatsApp 349-238-6666. 349-238-6666. Allacciate le cinture, che si parte. L'evoluzione del Covid-19 in Italia: nuovi contagi ancora in aumento, 16.079 in 24 ore, quasi 1.000 più di ieri, ma con circa 7.500 tamponi in meno. I morti sono 136 e il ministro Speranza annuncia presto test rapidi in farmacia e dai medici di base. Conte parla di situazione molto critica, il governo dice è pronto a intervenire ancora e le regioni si muovono in ordine sparso sulle misure anticontagio. Stasera parte il coprifuoco in Lombardia, a ore le decisioni della Sardegna, effetto notte ci sarà l'assessore della sanità dell'isola. Istruzione, l'amministrazionina contro le scuole chiuse in Campania e la didattica a distanza alle superiori. Impugni l'ordinanza se non è d'accordo, replica il presidente della Lombardia Fontana. Vertenze aziendali, nessun accordo fra governo e sindacati sulla proroga allo stop ai licenziamenti. Whirlpool annuncia la chiusura il 31 ottobre dello stabilimento di Napoli. Stati Uniti, tra poche ore, l'ultimo duello tra Trump e Biden in vista delle presidenziali del 3 novembre. Spettacolo, l'appello di Laura Pausini per le maestranze rimaste senza lavoro. Noi cantanti, dice, non abbiamo bisogno, ma loro vanno aiutati. Partiamo quindi dai dati relativi all'epidemia di coronavirus in Italia. Aumentano ancora i contagi e ancora più in altri paesi europei. Siamo in una situazione molto critica, ha ribadito oggi il presidente del Consiglio Conte. Intanto le regioni adottano provvedimenti che vanno dal coprifuoco alla didattica a distanza. Sopra quota 15.000 per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi di coronavirus in Italia. 16.079, quasi 1.000 in più rispetto al giorno precedente, ma con circa 7.500 tamponi in meno. In aumento anche il numero delle vittime, 136 in un giorno, 9 in più. Risale al 9,4%, dall'8,5% il tasso di positività, quasi raddoppiato nell'ultima settimana, e crescono i malati in terapia intensiva, ormai poco sotto i 1.000. La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di nuovi contagi, oltre 4.000, seguita da Piemonte, Campania, Veneto, Lazio e Toscana. In arrivo i tamponi rapidi nelle farmacie e negli studi dei medici di base e un bando per 2.000 nuovi operatori per le attività attività di tracciamento. Gli esperti però avvertono, se la tendenza non verrà invertita nei prossimi 15-20 giorni, serviranno misure drastiche. Quelle attuali non sono sufficienti. Il trend è esponenziale perché non si è agito prima, sottolinea Walter Ricciardi. Concorda Massimo Galli, che su Milano aggiunge: adesso stiamo per averla, la battaglia di Milano, che fu risparmiata dalla tempestività del lockdown dell'altra volta. Nel capoluogo lombardo torna a fare notizia il Pio Albergo Trivulzio, dove sono risultati positivi 14 ospiti e 5 dipendenti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dei tamponi rapidi in arrivo parleremo con il virologo Francesco Broccolo e il vicepresidente dei medici di medicina generale. L'Italia è in una situazione molto critica, appunto, diceva il presidente del Consiglio Conte alla Camera. Il governo ha sottolineato è pronto a intervenire ancora. Con questi dati in mano, già le regioni intervengono per rallentare i contagi e per cercare di armonizzare le ordinanze. Si susseguono le riunioni previste anche domani della conferenza Stato-Regioni. Altri coprifuoco e primi lockdown. Davanti all'impennata del contagio si allunga l'elenco di regioni e città che vietano gli spostamenti o chiudono aree affollate. In Sardegna pensano anche al blocco per 15 giorni delle attività e degli aeroporti, ma tutto è ancora da definire. Le prime a partire dalle 23 sono Lombardia e Campania. Nel primo caso scatta l'obbligo di restare a casa di notte e nel weekend la chiusura di alcuni centri commerciali prevista anche in Piemonte, mentre per Napoli e dintorni prima inizia il divieto di spostamento tra province, poi da venerdì il coprifuoco. Tornano le autocertificazioni per giustificare necessità di lavoro o salute, qui come anche in Lazio, dove la serrata notturna inizia nel fine settimana. A Roma poi, per garantire più distanza sui trasporti, si ricorre a bus privati. Restrizioni anti-assembramento sono attese pure in Veneto, ma non un lockdown, garantisce il presidente Zaia, anche se il tema della chiusura dei confini interni inizia a porsi nelle riunioni della conferenza Stato-Regioni. A questi provvedimenti si affiancano poi quelli delle grandi città. Così Genova impedisce le passeggiate dalle 21 e si potrà circolare solo se diretti ad un preciso indirizzo. Torino invece chiude le strade della Movida. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiarire quali saranno i provvedimenti previsti ora in Sardegna, sarà ospite qui l'assessore della sanità della regione. Intanto c'è la lettera appello della ministra dell'istruzione Azzolina al presidente della Lombardia Fontana contro la didattica a distanza. Dice Azzolina: desidero invitarla a lavorare insieme a tutte le istituzioni per trovare soluzioni differenti da quella adottata, nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini e del diritto allo studio dei nostri studenti e delle nostre studentesse. Ma il presidente della Lombardia replica: visti e considerati i dati relativi alla curva epidemiologica della Lombardia, ribadiamo essere necessarie decisioni stringenti. Se il ministro reputa eccessivi e non idonei i nostri provvedimenti, dice Fontana, può impugnarli. E a proposito di scuola, oggi si è tenuta la prima giornata del concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, riservato agli insegnanti che hanno già almeno 36 mesi di servizio. 1.645 i candidati, oggi suddivisi in 171 aule in tutta Italia. Un concorso che andava cancellata vista la pandemia, secondo i sindacati della scuola, irrisolto il nodo degli insegnanti in quarantena per i quali non è stata prevista una prova supplettiva. E di questi ultimi temi ne abbiamo parlato proprio ieri qui a Fettonotte con la segretaria generale della CISL Scuola, Maddalena Gissi. Per quanto riguarda invece le palestre, il Dipartimento per lo Sport ha emanato il nuovo protocollo attuativo delle linee guida per attività sportiva di base e attività motoria in genere, che aggiorna quello dello scorso 19 maggio e che introduce norme più stringenti. Lo annuncia il ministro Vincenzo Spadafora, dicendo: il mondo dello sport ha fatto e continuerà a fare il massimo per garantire piena sicurezza agli appassionati e ai lavoratori, come è avvenuto finora e anche di più. E vanno avanti le inchieste relative alla prima ondata di contagi da coronavirus. Nell'inchiesta sulla gestione della pandemia, in particolare nel capitolo che riguarda l'ospedale di Alzano, la Procura di Bergamo ha iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto alcuni tecnici, tra i quali l'ex direttore generale della Sanità Lombarda, Luigi Caiazzo, l'allora suo vice, Marco Salmoiraghi, e la dirigente dell'assessorato, Aida Andreassi. Iscritti pure Francesco Locati e Roberto Cosentina, rispettivamente ex direttore generale dell'azienda sociosanitaria di Bergamo e direttore sanitario. I PM di Bergamo hanno acquisito anche le chat dell'assessore regionale al welfare Giulio Gallera relative al periodo che va da febbraio a giugno. E spostiamoci all'estero, chiusure anche in altri paesi europei. Oggi l'annuncio di nuove misure in Grecia, coprifuoco ad Atene e a Salonicco a partire da sabato, e nuovi provvedimenti in arrivo anche in Francia, dove i contagi oltrepassano i 41.000 casi in 24 ore. Con un numero di nuovi casi di coronavirus in crescita costante in tutta Europa, aumentano anche le restrizioni varate dai governi. La situazione è grave, ed è grave in Europa. Il premier francese Castex ha annunciato l'estensione del coprifuoco notturno dalle 21 alle 6 del mattino a 38 nuovi dipartimenti, con ormai quasi la metà del paese e ben 46 milioni di cittadini toccati dalle misure eccezionali. La situazione è grave, le settimane che verranno saranno dure, con un inevitabile incremento delle vittime, ha annunciato Castex, che incoraggia un utilizzo massiccio dello smart working. In Olanda i nuovi casi superano i 9.000 giornalieri, coi pazienti trasferiti negli ospedali tedeschi per alleviare il peso sui presidi sanitari dei Paesi Bassi. Casi record anche in Austria, dove la sola Carinzia regge l'onda d'urto. Il premier Kurz sconsiglia viaggi e visite ai cimiteri durante le prossime festività di inizio novembre. Oltre 12.000 casi in Polonia, quasi 15.000 in Repubblica Ceca, mentre in Spagna si ragiona su un nuovo giro di vite e di restrizioni, e tre comunità autonome, le due Castiglie e Valencia, chiedono di poter introdurre il coprifuoco. Pure oltre Manica si allargano le nuove aree soggette a restrizioni. Unica eccezione in questo quadro in progressivo deterioramento la Svezia, che ha deciso di porre termine all'isolamento per gli over 70. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in Francia è altissima la tensione dopo la decapitazione dell'insegnante alle porte di Parigi. Si temono altri attentati. Oggi pomeriggio si è temuto il peggio alla stazione di Lione, dove una donna minacciava di farsi saltare, fermata dai reparti antiterrorismo, poi non aveva alcun esplosivo addosso. Di nuovo in Italia con la proroga dello stop ai licenziamenti. Non c'è accordo fra governo e sindacati. La proroga dello stop ai licenziamenti per la crisi Covid divide governo e sindacati. Un lungo confronto tra CGIL e CISL UIL e i ministri del lavoro e dell'economia, Nunzia Catalfo e Roberto Gualtieri, si è chiuso con un nulla di fatto. Le posizioni sono molto distanti, dicono i sindacati. La proposta del governo di prolungare il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio è insufficiente. Secondo CGIL, CISL e UIL, il blocco dei licenziamenti deve marciare di pari passo con la proroga della cassa integrazione e arrivare dunque fino alla fine dello stato di emergenza. Per trovare un punto d'incontro, i sindacati chiedono ora un tavolo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che rassicura sulla proroga della cassa integrazione Covid. Stanzieremo altri 5 miliardi, afferma Conte. Mentre si discute dello stop ai licenziamenti, la multinazionale Whirlpool incontra governo e sindacati e conferma che lo stabilimento di Napoli cesserà la produzione di elettrodomestici il 31 ottobre. I sindacati sono sul piede di guerra. Il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, prende atto della decisione dell'azienda e dice che informerà il governo. La scelta di Whirlpool è estremamente grave, afferma il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, e inaccettabile per il paese. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha respinto, definendolo irricevibile, il ricorso presentato da alcuni ex europarlamentari italiani che avevano avuto una riduzione del loro trattamento e interviene così sul taglio dei loro vitalizi. Musica. Quando tu finisci le parole, sto qui. Avevo la tua età. Sto qui. Era la prima volta che qualcuno mi trattava come una persona degna di fiducia. Questo è il tema del nuovo film, cantato da Laura Pausini, La vita davanti a sé, che segna il ritorno davanti alla macchina da presa di Sofia Loren, diretta dal figlio Edoardo Ponti. Io sì è il titolo del singolo, in uscita domani, è il nuovo brano di Laura Pausini, proposto per la nomination alla migliore canzone originale agli Oscar 2021. La presentazione è stata per Laura anche l'occasione per parlare del difficile momento della musica. Sento che ognuno di noi vuole proporre qualcosa per rimediare. Avevo scritto un appello insieme a tutti gli altri miei colleghi italiani che era rivolto al nostro governo. Non mi sembra che abbiamo ricevuto una grande risposta. Penso che in generale i cittadini non abbiano bene capito quante sono le maestranze. Sono 570.000 esseri umani, di cui ovviamente non possiamo prenderci cura noi 50 cantanti italiani. Lo possiamo fare magari a livello privato, personale, con quelli che conosciamo. Nell'appello è specificato bene per chi chiediamo l'aiuto. Noi cantanti non abbiamo bisogno di un aiuto economico. Le maestranze invece ora si trovano tutti senza lavoro e questo è molto grave. situazione difficile quindi per tantissimi settori. Bene, adesso si chiude questa prima parte di Effetto Notte per cominciare tra pochissimo gli approfondimenti con gli ospiti e poi i vostri messaggi. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure in WhatsApp al 349-238-6666, dove arriva fra gli altri questo bel messaggio. Un'ascoltatrice, un ascoltatore non si firma, dice grazie perché affronti questi temi tutti i giorni così difficili, complicati, senza cedere, dice, almeno nella voce, nella conduzione, ad allarmismo, ansia, preoccupazione, ma con professionalità, ritmo di sempre. Insomma, certamente la situazione non è molto rassicurante, però giorno per giorno cerchiamo di capire che cosa succede, cerchiamo di capire anche che cosa ognuno può fare e che cosa effettivamente sia più giusto in generale fare. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti dove potete trovare veramente tutte le notizie più importanti che dovete conoscere a fine giornata, tra quello che è successo di più importante in Italia e all'estero. Roberta Giordano, tutte le sere qui naturalmente a raccontarvelo e poi per quanto riguarda alcuni temi, gli approfondimenti insieme agli ospiti che ci aiutano a scandagliare alcuni argomenti in particolare e a comprenderli meglio. Dice per esempio questo, scrive questo ascoltatore, Manolito da Fossano in provincia di Cuneo: il problema non sta nelle scuole ma nei mancati controlli. Oggi pomeriggio a Fossano, dice, provincia di Cuneo, parco cittadino, un bel gruppo di adolescenti giocavano a calcio e basket, tutti senza mascherina, nel bar dopo la consumazione a chiacchierare, viso scoperto, seduti spalla a spalla. Non dico di multare tutti, ma un fermo richiamo di comportamenti indicati sarebbe necessario, dice Manolito, e ha perfettamente ragione. E adesso partiamo col primo tema. In questi giorni, ancora nelle prossime settimane, dovremo rimanere ben concentrati. Siamo ben consapevoli che il nemico non è stato ancora sconfitto, circola tra noi. Siamo ancora dentro la pandemia. Il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l'attenzione altissima. Stavolta, forti dell'esperienza della scorsa primavera, dobbiamo adoperarci rimanendo vigili, prudenti, pronti a intervenire nuovamente se necessario. Lo ha ribadito oggi il Presidente del Consiglio Conte, ieri aveva parlato al Senato, oggi ha parlato alla Camera e, come avete sentito nella prima parte di Effetto Notte, i contagi sono ancora in aumento anche nel nostro Paese, 16.079 in 24 ore con 136 morti. Ci sono stati tra l'altro 7.500 tamponi in meno di ieri e però invece i contagi sono più di 1.000 più di ieri. Conte ha detto la situazione è molto critica, il governo è pronto a intervenire ancora. Intanto diverse regioni, come sapete, come vi ho raccontato anche in questi giorni, stanno adottando delle misure più restrittive rispetto al decreto del Presidente del Consiglio dei giorni scorsi. La Campania, il Piemonte, Lazio, la Lombardia e tra poche ore anche la Sardegna adotterà delle misure restrittive. Si parla di un lockdown stop and go, ma poi ne parleremo direttamente con l'assessore alla sanità della Sardegna. Nel frattempo il ministro Speranza, ministro della salute, dopo una riunione di oggi con governo e regioni, ha annunciato che arriveranno i tamponi rapidi che si potranno fare sia nelle farmacie sia negli studi dei medici di base e poi sono in arrivo, ha aggiunto, anche 2.000 operatori per potenziare l'attività di tracciamento. E medici di famiglia, la conferenza Stato-Regioni, i sindacati sono tra l'altro convocati per lunedì per appunto arrivare a un accordo sui test rapidi fatti dai medici di famiglia. Ricorderete che nella puntata del 7 ottobre di Effetto Notte era ospite Pierluigi Bartoletti, vicepresidente della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, che aveva annunciato l'imminente inizio, per quanto riguarda i medici di base del Lazio, della sperimentazione di questi test rapidi. Allora lo saluto, buonasera dottor Pierluigi Bartoletti. Buonasera a voi. Bentornato, come è andata sinora dai vostri medici? Stiamo lavorando per cercare di velocizzare il più possibile questa operazione. Diciamo così, noi siamo stati presi un po', diciamo così, un po' in anticipo perché era tutto pianificato. Pensavamo che iniziamo un autunno più tranquillo, invece questo è un autunno molto caldo. Molto caldo da una parte e molto freddo dall'altra. Quindi dobbiamo assolutamente attrezzarci il più velocemente possibile, anche perché il tema adesso è che ci sono molti malati a casa, molti malati domiciliari, a Roma ce ne sono 16.000, ed è chiaro che per mettere gli operatori in sicurezza per andare a visitare queste persone è necessaria una diagnosi rapida. E ad oggi l'offerta della diagnosi rapida, per quanto si sarà allargata anche molto, è un'offerta che purtroppo è inferiore alla domanda. C'è una domanda inappropriata? Assolutamente sì. C'è molta di confusione, le persone sono spaventate, ma noi pensiamo che in ogni caso avere a disposizione uno strumento in più per la diagnosi differenziale, così la chiamiamo, tra Covid e patologia febbrile possa aiutare anche i colleghi a lavorare in sicurezza. Quindi colleghi che stanno lavorando, non la richiesta da parte delle persone, degli utenti, dei pazienti non è soddisfatta per un numero di medici che forse non hanno aderito, o è una questione di strumentazione? No, non è un problema di adesione, il problema è che di organizzarsi. No, è tutto un problema di organizzazione, partendo dal fatto che in medicina non ci mettiamo nulla, quindi prima di mettere in pista i colleghi bisogna formarli e mettersi in condizione di stare in sicurezza per loro e per i pazienti. Diciamo che era stato tutto pianificato per partire ad ottobre, siamo a ottobre, quindi siamo un po' in ritardo di una settimana, ma la verità è che l'epidemia sta correndo più di noi, dobbiamo correre più di noi. Quindi in realtà, insomma, ancora diciamo un po' stenta a partire questa sperimentazione? No, non è che stenta, tanto bisogna che arrivino gli strumenti, quindi kit e i collaboratori, e dovrebbe arrivare la prossima settimana. A questo proposito, dottor Bartoletti, mi dice, ci spiega le ascoltatrici e ascoltatori, come funzionano esattamente questi test rapidi? Sono sempre quelli fatti col bastoncino oppure la goccia di sangue? Quali sono? No, quelli col bastoncino, nel senso che noi utilizziamo la tecnica che stiamo usando come USCAR, quindi l'asso che ha 3/20 al 16 agosto, è una tecnica sicura per l'operatore, perché di fatto si rileva un campione del rinofaringe profondo, si abbassa solo la mascherina sul naso, il tempo di prelievo è inferiore ai 30 secondi, la persona non parla, la risposta è in 30 minuti, e ieri è stata pubblicata adesso una valutazione circa l'efficacia del test, che qualora sia positivo sotto un certo valore esclude la conferma con molecolare, che significa che noi cominceremo a togliere di mezzo molti tamponi molecolari che oggi vengono richiesti e stanno imbolfando gli ambulatori e i laboratori. A questo punto saluto il professor Francesco Broccolo, virologo dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e direttore del laboratorio CERBA di Milano, che ringrazio di essere qui. Buonasera a tutti. Buonasera professore. Senta, a proposito appunto dei test rapidi, test di cui stavamo parlando, lei non mi è sembrato particolarmente entusiasta, ho letto qua e là. Non ero entusiasta quest'estate, quando insomma le positività non erano così evidenti, le cariche virali a luglio, a giugno erano ancora basse. Adesso c'è un disperato bisogno di fare test e, come dice la lettera sul New England Journal Medicine appena pubblicata, è più che giustificato in questo momento, in questo quadro epidemiologico pandemico, il test rapido ben venga. La potenza di fuoco dei laboratori, come vediamo, non supera mai i 170.000 test al giorno, quindi non si riesce ad arrivare a questa soglia dei 200.000. Quindi i test rapidi ben vengano, purché ci sia la tracciabilità del dato e purché non si mescolino i dati del test antigenico con il test molecolare. Terrei sempre separati i risultati, altrimenti si fa un pasticcio dal punto di vista statistico ed epidemiologico. Quindi ci vuole organizzazione anche adesso nel separare i dati, ma ben venga il test rapido, assolutamente. Perché lei dice, in una situazione di emergenza dove i laboratori non riescono a stare dietro a tutti quelli che fanno i tamponi, anche se questi magari sono leggermente meno affidabili, però almeno qualcuno lo troviamo, lo individuiamo, insomma, di positivi. Poi proprio oggi ho lanciato l'allarme che le cariche virali sono altissime nell'80% dei casi, quindi ancor più si giustifica la presenza, l'utilizzo dei test rapidi, che hanno una sensibilità intorno a 1 milione di copie per ml di tampone, e visto che l'80% ormai dei tamponi ha una carica virale superiore a 1 milione, molti ne troviamo addirittura di miliardi, a questo punto direi ben venga il test rapido, facciamo molti test rapidi ma tracciamo il dato e non mescoliamo il dato del test rapido con il test molecolare. Che ne pensa, dottor Bartoletti? Sottoscrivo con tutto quello che ha detto il professor Broccolo, soprattutto occhio a non perdere il tracciamento, perché non fare il tampone non basta, se non seguiamo il filo dell'epidemia e lo perdiamo non abbiamo dato un bel servizio. Fare il tampone non cura le persone, bisogna cercare di evitare che di perdere il filo, e la paura vera è che se tu allarghi troppo l'offerta e la rendi poco controllabile, la situazione da un punto di vista emotivo può migliorare, tutti hanno un tampone, ma da un punto di vista epidemiologico può anche peggiorare, e questo mi preoccupa un po'. Dottor Bartoletti, senta, tra l'altro oggi il sindacato dei medici italiani ha denunciato il fatto che dall'ISS, cioè dall'Istituto Superiore di Sanità, non è arrivato nessun indirizzo, nessuna linea guida per curare le persone a casa, è vero? Diciamo così, che un po' della materia un po' me ne occupo da generale, ma da febbraio, anzi da gennaio dello scorso anno, pubblicazioni ce ne sono in tutto il mondo. Il New England oggi ha pubblicato con un certo questo Brocco un lavoro importante, ci sono linee guida sulla gestione del Covid domiciliare, il risultato superiore esistono, c'è una guida d'interim del 20 luglio se non sbaglio, che delinea abbastanza in maniera abbastanza accurata grosso modo le fasi cliniche della malattia e quindi si può gestire. Esistono pubblicazioni, esistono anche internazionali, non serve che le pubblichi un ente soltanto, tutti i medici vanno a vedere varie fonti di informazione su Covid, una malattia nuova. Non mi stupisce che insomma non abbiamo aggiornato giorno dopo giorno le cose, però il materiale c'è, bisogna leggerlo, andarselo a vedere. Chiaro. Il caso è importante che tutti conosciamo bene il nemico. Chiaro. Professor Broccolo, visto che lei opera, lavora a Milano, questa cosa del coprifuoco che inizia oggi in Lombardia dalle 23 fino alle 5, le sembra rispetto ai contagi, a quello che lei ha detto, una misura efficace? Cosa ne pensa delle misure che si stanno prendendo? Beh, io sono d'accordissimo, ma attenzione perché il virus si replica dove trova comportamenti non coerenti. Non si può fare un coprifuoco e poi vedere assembramenti alle entrate delle scuole e soprattutto nei tram, nei mezzi pubblici. Non vedo degli scaglionamenti sui mezzi pubblici. Quando diciamo che l'80% della capienza dei mezzi pubblici non deve essere superata, deve essere l'80% della capienza dei posti a sedere e non di un totale del quale non si sa quale sia il totale. Cioè dobbiamo vedere persone sedute ai loro posti e magari anche con un po' di ventilazione, con finestrini un po' semiaperti, anche se fa freddo mi rendo conto, ma il ricambio del circolo di aria è fondamentale. Quindi comportamenti coerenti, perché il virus fa il virus e si replica e approfitta dell'incoerenza. Professor Broccolo, vedevo adesso che stanno arrivando appunto le norme più stringenti per le palestre, per le attività sportive, e vedo che il ministro Spadafora avrebbe previsto per le palestre, oltre a pratiche di igiene intensificate, più controlli eccetera, anche le mascherine indossate sempre. Ora, a parte che per la corsa ormai si è capito che non si può mettere perché sennò viene una crisi cardiaca, ma anche facendo attività motorie in una palestra ha senso mettere la mascherina? Nel senso, non provoca poi altri problemi, visto che la respirazione di solito è accelerata, si fa fatica, professor Broccolo? Sì, sono d'accordo. Bisogna sempre dare delle indicazioni che poi si sposino con la realtà dei fatti. Una corsa non può essere fatta assolutamente con una mascherina. Piuttosto metterei una regolamentazione molto stringente sugli impianti di aerazione, sui filtri, perché gli impianti di aerazione sono il punto focale dei luoghi chiusi, delle palestre, ma così come anche degli uffici. Quindi è su questo che mi soffermerei e ovviamente il distanziamento. Professore, per chiudere, il CT della Nazionale di Calcio Maschile, Mancini, oggi ha fatto un post con una vignetta dove un medico chiede al paziente che è lì disteso: com'è che hai preso il Covid? E lui risponde: guardando i TG. Ha creato un polverone, moltissime polemiche naturalmente, poi a fine giornata, dopo tutte queste polemiche, Mancini ha detto: mi scuso, non volevo offendere nessuno, era solo per alleggerire. Lei come commenterebbe questa vicenda? Beh, un po' ha ragione, dare sempre questi numeri, tra l'altro numeri importanti, mette nel panico le persone, questo continuo ripetere dei numeri. Diciamo una volta o due al giorno la percentuale di positivi e i numeri della terapia intensiva. Ad esempio oggi dobbiamo dire che siamo arrivati a 992 terapie intensive e a Milano abbiamo superato, a Lombardia abbiamo superato i 150 e quindi apriremo anche l'ospedale in fiera. Queste sono le informazioni che dobbiamo dare, ma tutti questi numeri generano panico, generano depressione, non aiutano. La comunicazione è molto importante. Voi giornalisti avete un ruolo molto importante nella comunicazione, dovete spiegare bene ma non dovete spaventare, potete allarmare ma non dovete spaventare, quindi basta numeri. Grazie professor Francesco Broccolo, grazie, buon lavoro, e grazie al dottor Pierluigi Bartoletti, anche a lei buonasera e buon lavoro. Grazie, buonasera. Grazie a entrambi. Ci fermiamo allora per la solita pausa di riflessione, di riposo, di respiro, brevemente, mentre arrivano i vostri messaggi, dove dice per esempio questo ascoltatore: buonasera, cortesemente è possibile fare questa domanda al ministro dei trasporti? Ancora la ministra in questi giorni non è qui a effetto note, considerato che già a maggio si sapeva che con la ripresa della scuola si sarebbero stati ulteriori contagi perché non si è pensato di aumentare i mezzi pubblici, e questo è un problema in realtà che abbiamo affrontato più volte anche col presidente dell'Associazione Nazionale del Trasporto Pubblico Locale, con i presidi, quando si parlava di appunto fare didattica a distanza per evitare il congestionamento sui trasporti, loro erano contrari, ci sono state varie critiche effettivamente sul trasporto pubblico locale. In realtà la ministra ha detto che hanno stanziato il governo milioni per le regioni, e anche le regioni hanno avuto i loro ritardi. Torno ratta come la folgore. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto notte, state ascoltando il vostro programma preferito antivirus, nel senso che se ascoltate tutte le sere Effetto notte con Roberta Giordano, eccomi qua, siete consapevoli di quello che succede, di quello che è giusto fare, delle precauzioni da prendere, di quello che ci circonda e di dove sta andando e delle decisioni che sta prendendo il governo, le regioni, eccetera. Quindi piena consapevolezza della situazione in cui siamo. Come scrive Christian, che dice: quanti milioni di carabinieri, poliziotti e vigili urbani servono per controllare 60 milioni di cittadini? Se ognuno non fa la sua parte non ne usciamo più. E ha perfettamente ragione Cristian, a proposito anche del messaggio prima di un ascoltatore che diceva: qui in provincia di Cuneo ho visto dei ragazzi, un gruppo che giocava a basket, a calcetto, poi andavano al bar insieme a scherzare, a bere, eccetera eccetera, senza la mascherina. Fra l'altro un altro ascoltatore invece dice, a proposito della stretta sulle palestre, dice: io la mascherina in palestra la metto sempre, chi non ce la fa rallenti i ritmi. Però abbiamo sentito anche prima il virologo, il professor Broccolo, d'accordo con me, nel mio piccolo, scusate, che nelle palestre, cioè fare attività sportiva, abbiamo detto che è escluso il running, che lì proprio ti viene una crisi cardiaca immediata e altro che infarto, ma anche l'attività dentro la palestra con la mascherina, non lo so, uno fa dello yoga molto molto leggero, ma se no altri tipi di esercizi, mi sembra che sia un po' controindicato. Comunque, dicevamo delle varie misure restrittive che diverse regioni stanno man mano adottando, da nord a sud si moltiplicano le ordinanze per arginare il contagio, non solo da parte dei presidenti di regione ma anche dai sindaci. Abbiamo avuto Nardella nei giorni scorsi, ma Chiara Appendino anche a Torino, tutti stanno facendo, da Palermo a Torino, diciamo stanno cercando di contrastare un po' la movida che sappiamo essere poi originare poi molti casi di contagio. Il fatto insomma di stare insieme, di non avere la mascherina, di ridere, scherzare, parlare, parlarsi addosso, e purtroppo ci sono tante zone di assembramento che quest'estate è stata la dimostrazione insomma che hanno prodotto non pochi contagi, se oggi siamo più di 16.000 in Italia. E per le tre regioni che hanno deciso di adottare il coprifuoco, Lombardia, Campania, Lazio, il Viminale ha già predisposto un'autocertificazione che i cittadini dovranno esibire per spostamenti dovuti a necessità. Anch'io stessa, quando uscirò di qui, e siccome sarò in circolazione anche un po' oltre le 23, lo dovrò fare. E dopo questo coprifuoco appunto di Campania, Lombardia e Lazio, entro qualche ora anche la Sardegna prenderà dei provvedimenti piuttosto stringenti. E li chiedo allora a Mario Nieddu, che è assessore alla sanità della regione autonoma della Sardegna, che ringrazio di essere qui in collegamento con Effetto Notte. Nieddu, buonasera. Buonasera a voi, grazie a voi. Quindi il presidente della Sardegna, Solinas, ha deciso che nelle prossime ore adotterà una serie di provvedimenti, anche di blocco di alcune attività. Nieddu. Stiamo ragionando su quali sono le misure che è possibile assumere per, non dico bloccare perché non è possibile bloccare la circolazione virale se non con un lockdown molto serrato, ma stiamo pensando di assumere alcune misure che possano impattare sull'abbattimento della circolazione virale senza abbattere il nostro fragile tessuto economico. Questo è quello che stiamo cercando di valutare insieme al nostro comitato tecnico scientifico, per vedere di riuscire a ritardare la curva di contagio, che è diventata un picco, uno spike, non è più un plateau, ma ormai è proprio una, non è un'onda lunga ma è un'onda alta. Niedu, capisco l'equilibrio da trovare è sempre difficilissimo, sottilissimo, no? Non compromettere le attività produttive, la scuola, eccetera, e la vita sociale, però nello stesso tempo dover assicurare la salute per tutti, la sicurezza. Qualche anticipazione? Sentivo che addirittura chiudereste in certi periodi porti e aeroporti in Sardegna. Beh, intanto questo non è un provvedimento che è nelle corde delle singole regioni, perché ricordo che la competenza sui trasporti è una competenza governativa nazionale, quindi noi possiamo, tutt'altro possiamo proporre alcune misure in questo senso, ma non è un ambito di competenza regionale, è un ambito strettamente di competenza nazionale. Altre misure però sono possibili e non impattano sul tessuto economico. Ricordo per esempio che uno dei problemi più importanti che si stanno vivendo, e non solo a livello della regione Sardegna ma in tutte le regioni dopo l'apertura delle scuole, è il problema dell'affollamento nei mezzi pubblici e quindi il trasporto pubblico locale, anche se c'è il PCM che è un riempimento non superiore all'80%, i problemi si pongono comunque alle fermate dove ci sono assembramenti e poi sugli stessi mezzi. Chiaramente non è semplicissimo rispettare queste norme, quindi abbiamo pensato di assumere un provvedimento che è quello per esempio di far fare la didattica a distanza agli alunni degli ultimi anni delle scuole superiori, mantenendo invece la possibilità di andare in presenza agli alunni delle scuole elementari e delle medie, della primaria, della scuola dell'obbligo, insomma. E questo potrebbe comunque aiutare senza causare grandi disturbi, perché ricordo che sono norme che noi stiamo prevedendo per 2 settimane al massimo, 15 giorni. Quindi diceva Assessore Nieddu, la scuola potrebbe essere quella della didattica a distanza per le superiori come stanno facendo altre regioni. Certo, devo dire che quando si pensa alla Sardegna non viene subito in mente la congestione di trasporto pubblico locale, perché si immagina la grande isola bellissima, in tanta parte selvaggia, no? Con grandi spazi, però anche voi avete quindi di questi problemi. Beh sì, ce li abbiamo sia nelle città e sia perché comunque dai nostri paesi gli studenti si spostano con i mezzi pubblici per andare a raggiungere le città dove si trovano le scuole superiori, e quindi e comunque i trasporti anche per noi sono molto importanti. Senta Nieddu, però in questo fine settimana si vota comunque in Sardegna alle comunali, no? Ci sono le elezioni comunali, certo. 156 centri dell'isola. Senz'altro, sì, assolutamente non abbiamo nessuna intenzione di impedire il diritto di voto ai cittadini, anzi siamo impegnatissimi a garantirlo in totale sicurezza. Senta, entro quante ore più o meno verrà presa quindi questa decisione di che provvedimenti prendere per la Sardegna? Abbiamo fatto delle interlocuzioni in tutta la giornata col Presidente, col Comitato Tecnico Scientifico, domani abbiamo una riunione politica, domani mattina una riunione politica con tutti i capigruppo della maggioranza e dell'opposizione, perché è ovvio che le soluzioni migliori sono quelle condivise, quindi non assunte in solitudine dalla maggioranza ma condivise anche con l'opposizione in Consiglio regionale, e quindi valuteremo domani mattina, dopodiché il Presidente deciderà lui quando riterrà più opportuno emettere l'ordinanza. Quindi soprattutto didattica a distanza, ma non prevedete il lockdown che si paventava un po' e si vedeva? No, assolutamente, non sono misure che la Sardegna si può permettere di sostenere. Bene, Assessore Mario Nieddu, io la ringrazio moltissimo, le auguro buon lavoro, un abbraccio alla Sardegna, alla bellissima Sardegna. Grazie a tutti, buonasera. Grazie. E abbiamo la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, accompagnarvi fino alle 22 con le notizie e gli approfondimenti, naturalmente gli ospiti. Ci sono ascoltatori ovviamente sempre di posizioni opposte. C'è un ascoltatore, vediamo se ritrovo il suo messaggio, che dice che i vari virologi, e fa vari nomi, uccidono la gente spaventandola ogni giorno, eccetera, eccetera, mentre un altro messaggio, questo messaggio appunto di chi dice che spaventano ogni giorno, è di non si firma, non mi sembra di vedere la firma, mentre un altro ascoltatore dice non vorranno mica censurare i medici l'informazione, perché prima il professor Broccoli diceva non diamo troppi numeri che spaventiamo. Insomma, bisogna sempre trovare, naturalmente, dire le cose come stanno prima di tutto, perché non è che sono poi la popolazione è minorenne, diciamo, no? E poi anche perché insomma, bisogna essere consapevoli, sapere come comportarsi, sapere come stanno le cose senza allarmarsi eccessivamente, però man mano diciamo le cose come stanno e adeguiamoci anche alle priorità, alle cose necessarie da fare. Adesso è necessario che ci colleghiamo invece con gli Stati Uniti, con il nostro Riccardo Barlam. Caro Riccardo. Buonasera, sono con la mascherina a New York, adesso me la tolgo per parlare con voi. Bravo, respira, respira intanto, se non hai nessuno intorno. Oggi è stata una bella giornata per l'Italia qui a New York, perché ci sono stati celebrati 75 anni della fondazione delle Nazioni Unite e hanno scelto l'Italia per la celebrazione, diciamo, che è stata purtroppo virtuale a causa del Covid, ma c'è stato un concerto speciale del Teatro della Scala, del Corpo di Ballo, Roberto Bolle, e tutti ovviamente con la mascherina nella sala dell'Assemblea Generale, e hanno ricordato l'Italia, che è stata la prima dei paesi occidentali a essere colpito dal Covid, e anche come ha fatto a cambiare le carte. Io spero che ci riesca anche, e speriamo anche questa volta. Seconda ondata, comunque insomma è passata una buona giornata. Ora non so che cosa succederà invece nelle prossime ore, ma sicuramente ci sarà l'ultimo duello, l'ultimo confronto, un incontro tra di box, diciamo. Il presidente a questo incontro di box tra il presidente uscente, appunto, americano Trump, e invece il rivale democratico Biden. Tra l'altro, Riccardo, sempre a distanza, no, da quando è risultato positivo Trump al coronavirus, ma oppure in presenza? Saranno in presenza? Saranno in presenza, saranno uno da un lato, uno dall'altro. Distanti. A Nashville, in Tennessee, che è uno degli stati repubblicani, diciamo. Quello che è più importante questa sfida per Trump, perché ha tutto da guadagnare, lui è indietro nei sondaggi, anche se oggi vedevo che ci sono tre stati di questi stati in bilico, il Michigan, l'Arizona e la Florida, dove Trump è avanti di poco, ma è avanti da... Mi pareva anche Biden, l'Ohio, o sbaglio, Riccardo? Anche l'Ohio, sì, esatto. Quindi insomma Trump è in rimonta alla grande, e c'è questa cosa nuova che dopo il primo incontro, il 29 settembre, in cui è stato veramente una... Perché si interrompevano continuamente, no? Sì, continuamente. Trump interrompeva tutti, interrompeva anche il giornalista, che peraltro era un giornalista, diciamo, vicino di Fox News, non lo faceva parlare. Oggi hanno stabilito questo comitato che organizza questi tre dibattiti televisivi, oggi è l'ultimo dei tre, che chiuderanno il microfono della persona che non parla nei primi due minuti, quando fanno la domanda a uno dei due candidati. Quindi sarà Trump a non poter parlare quando parla Biden per due minuti, a non poter parlare lì sopra, e viceversa lo stesso farà Biden quando faranno la domanda a Trump. In questi saranno 90 minuti di dibattito. Comunque mi sembra un'ottima regola, soluzione questa, se per evitare appunto caos, e la gente deve capire quello che dicono e degli argomenti di cui parlano. Diciamo che i consiglieri di Trump gli hanno detto di stare un po' più tranquillo, di cercare di dare un'immagine del paese, di quello che lui vuole, perché il punto adesso è conquistare gli indecisi in questi stati in bilico, e gli indecisi vogliono stabilità, vogliono che si parli di temi concreti, della ripresa economica, del COI, tutte queste cose, e non vogliono vedere litigare e fare la guerra, insomma. Però sapete com'è Trump, è un grande comunicatore, e quindi lui non ascolta nessuno, segue il suo istinto, non so come andrà. Biden, basta che non faccia dei passi falsi, lui è veramente più lento, lo scontro tra un 74enne e un 77enne, coetanei. Senti, tra l'altro la moderatrice dell'incontro è la giornalista Kristen Welker della rete NBC, che però Trump ha già attaccato pesantemente. Sì, no? Ha già attaccato, perché ha detto che è una democratica. Diciamo che Trump ha perso i due primi incontri, è stato curioso veramente l'ultimo incontro, che è stato a distanza, lui è insomma, con questa giornalista di NBC, Savannah Guthrie e Savannah col sorriso è stata, io da 4 anni, da tanto tempo che seguo tutti i giorni le cose di Trump, è stata la prima a riuscire a far zittire Trump col sorriso, quando lui diceva qualche stupidaggine lei ha detto anche non è mica lo zio pazzo, le ha detto, esatto, anche, ma no? Genere, io ho pensato anche ma forse sarà stato pieno di medicinali per il COVID, così tranquillo, di cortisone, quindi era un po' così diciamo rinco, era talmente tranquillo che non aveva avuto la forza di reagire. Vediamo come andrà stasera, e ammesso che questi dibattiti televisivi spostino i voti, insomma. Mi pareva di sentire che il 90% degli americani ha già deciso comunque. Ma sì, il paese è diviso in due con il coltello e quindi non è mai stato così polarizzato come adesso, e quindi c'è un odio reciproco, ecco, tra i due schieramenti. È veramente velenosa questa elezione, poi strana in quest'anno del Covid, che è un anno drammatico per tutti, per l'umanità, insomma non se ne può più francamente. Io spero che ci sia un vincitore chiaro, ecco, perché lo scenario peggiore sarebbe che non vince nessuno e che lo scarto è talmente minimo che si mettono a litigare, e sarebbe lo scenario peggiore. Anche per non agitare tutto il paese, insomma, chiaro. Ma anche per noi, per tutto il mondo, diciamo. Certo. Tra l'altro, spero, Riccardo, che ci sia un vincitore chiaro. I temi, giusto per riassumere molto velocemente, sul quali dibatteranno, sono 6: la lotta al Covid, la condizione delle famiglie americane, la questione razziale, il cambiamento climatico, la sicurezza nazionale, la capacità leadership, no, che un presidente deve avere. Esatto, proprio così, preparatissima, direi. Sono questi, sono 6 blocchi da 15 minuti, appunto i primi due fanno 2-2, uno parla e l'altro sta zitto, e poi cominciano a, diciamo, a dibattere, tradotto a litigare, ecco. Bene, quindi poi ci racconterai magari domani com'è andata, domani tutto questo mattina, in vista, senz'altro, del 3 novembre, quando ci saranno poi le elezioni. Grazie, Selection Riccardo Barlam degli Stati Uniti. A voi. Ciao. Buonanotte. Riccardo, un abbraccio. Ciao. Ora invece mi rivolgo al nostro Carlo Genta, che ci racconta come sono andate le partite di Europa League di oggi. Carlo? Ciao Carlo. Ciao Roberta, come stanno andando in parte? Perché qualcuno è ancora in corso. Come? Qualcuno è ancora in corso. Sì, la partita del Milan è all'intervallo, gioca in Scozia, in un teatro storico, peraltro vuoto ovviamente, quello dei Celtic di Glasgow. Milan che sta vincendo 2-0, ha sofferto un pochino nei primi 10 minuti, ma poi il Milan è davvero in una condizione stratosferica, ha segnato prima con Krunic, primo gol per lui con la maglia del Milan, colpo di testa su Kostas Kastijeko, e poi raddoppio nel finale di primo tempo con Brahim Diaz su assist di Hernandez. Milan sul velluto senza grandi problemi, a testimonianza di una condizione, ripeto, straordinaria. Per quanto riguarda invece le altre due partite, una sorpresa amarissima quella del Napoli, che perde in casa con la AZ Alkmaar, squadra olandese, peraltro arrivata a Napoli decimata da problemi di Covid. Napoli che perde 1-0 e gioca davvero una brutta partita, probabilmente errore di sottovalutazione dell'avversario può essere in questo caso. La Roma invece non brilla, ma vince in Svizzera sul campo degli Young Boys in rimonta dopo essere passato in svantaggio per un rigore avversario, ribalta il risultato tutto nel secondo tempo, con Bruno Perez e poi il gol vincente di Kumbulla. Dunque vittoria per la Roma, sconfitta in casa per il Napoli, e Milan che sta vincendo 2-0. Grazie mille Carlo Genta, che troverete domani come sempre a tutti convocati alle 14. Ciao, buonanotte Carlo. Ciao caro. E Carlo è proprio sprint. E intanto vi dico dei tanti messaggi che stanno arrivando, per esempio relativi alla scuola. Giacomo da Bergamo dice: in Campania i contagi calano perché De Luca ha saggiamente chiuso le scuole, mentre altri ascoltatori dicono che le scuole devono rimanere aperte. Un altro dice: cara Roberta, su contagi e scuola c'è silenzio stampa, perché non concedono la possibilità di tenere i figli a casa, volendo e potendo. No, in realtà diciamo che molti stanno spingendo, molte regioni, la didattica a distanza, come dicevamo, ne sta pensando persino la Sardegna. In realtà non c'è silenzio stampa sui numeri, o almeno nei giorni scorsi ho dato conto di quello che ha detto l'amministra Azzolina, della percentuale di contagi che avviene nelle scuole. Mi pare che avesse parlato di uno 0,75, quindi secondo la ministra ancora molto basso i contagi, dice, non avvengono nelle scuole, semmai fuori, anche dai ragazzi stessi, insomma. Però a questo punto ci dobbiamo lasciare, ma vi aggiorno brevemente alle 22. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.